Allora, ancora una corrispondenza, questa volta con Napoli, con un compagno dell'occupazione di Jesò Pazzo, per parlare di quello che è successo ieri mattina, se non sbaglio, davanti a una scuola, il Vittorini di Napoli, e poi quello che è successo anche qualche ora dopo, quindi questa aggressione da parte dei fascisti di Casa Pound nei confronti di alcuni studenti della scuola e poi quello che ne ha seguito, un'aggressione insomma che ha avuto conseguenze anche molto gravi. Se ci vuoi riassumere, c'è un vostro comunicato, però volevamo sentire anche da te la dinamica di quello che è successo e poi quali sono le iniziative. So che ieri c'è stata un'assemblea. Esatto, buongiorno, esatto. E cosa è successo ieri? Ieri mattina abbiamo una telefonata del collettivo del Vittorini, che è un collettivo comunque legato, che partecipa comunque all'attività con noi e all'attività del gruppo comunque del FAC, che sono il nostro gruppo di studenti delle scuole medie superiori. La mattina praticamente i militanti di Casa Pound si erano presentati fuori al liceo a fare un volantinaggio e i membri del collettivo del liceo hanno praticamente iniziato a strappare davanti ai militanti di Casa Pound i manifesti. Questo ha comportato che uno dei ragazzi del collettivo si è beccato un sonoro pugno in faccia e ha svenuto. Ovviamente appena abbiamo saputo questa cosa siamo corsi ad uscita dei ragazzi per fare una piccola operazione comunque di supporto, per capire che non erano da soli, che non dovevano preoccuparsi, che comunque avevano la nostra totale solidarietà. Abbiamo messo una striscione, abbiamo comunque parlato con i ragazzi, abbiamo avuto modo anche di intravedere il preside e scambiare un paio di parole, ma subodorando che poteva succedere qualcosa, decidiamo di accompagnare i ragazzi del collettivo e comunque tutti quelli che avevano avuto modo di parlare alla metropolitana, che è vicino al liceo, perché volevamo comunque evitare che qualche testa calda di questi fascisti potesse fare qualche tipo di rappresaglia. Per nostra fortuna che questo è realmente successo. Quando ci stavamo dirigendo un drappello comunque di un po' di noi verso la metro, in lontananza ci raggiungono correndo questi tre individui molto coperto, caschi in testa e martelli in mano, che iniziano prima a lanciarci una serie di bottiglie piene ancora di birra, e poi ci caricano puntando praticamente a colpirci con questi martelli. Il martello è riduttivo, si trattava praticamente di delle scosse sostanzialmente, dei martelli di una sostanzialmente grande. Lo scontro è stato violento, è stato lungo, abbiamo fatto scudo sui ragazzi più piccoli, i militanti di Casa Pound hanno ferito noi in maniera estremamente grave, due compagni che sono in ospedale, e hanno ferito dei passanti che hanno partecipato a questo tafferuglio, cacciando, riconoscendo i militanti di Casa Pound come fascisti e cacciandoli, mettendoci dalla nostra parte, riconoscendoli come fascisti e cacciandoli via. E da quel momento poi siamo dispersi, ovviamente, per una paura di possibili anche rappresaglie. E il dato è tremendo, perché questi sono comportati come peggio di quello che sono, se peggio di come si fanno di solito. Il tentativo è evidente, quello di lasciarci a terra, di ucciderci. Sì, ho visto le foto anche degli strumenti, chiamiamole così, che hanno usato, anche le foto che avete diffuso sulle ferite, insomma fanno abbastanza impressione. Come impressione fa quello che la stampa, e non necessariamente quella proprio dichiaratamente di destra tipo Il Giornale, ma anche Repubblica, che dà spazio alle due versioni, no? Tirando fuori anche quella che ha diffuso Casa Pound di essere stati loro aggrediti, come già succede. Io dicevo prima al microfono che colpisce che in questi casi poi chi ci rimette quasi la pelle o sicuramente comunque la testa sono quelli che loro chiamano aggressori. Questo insomma lascia un po' perplessi, no? Sì, è tremendo. Quello che sono riuscito a fare con il loro comunicato è quello di travisare la realtà, dichiarando che noi travisiamo la realtà. Hanno tirato fuori un comunicato folle, non, quando ci fu l'aggressione della ragazza, sempre che poi nello stesso quartiere, da parte loro. Sì, me lo ricordo. Ci veniva quasi da ridere, perché lì si dichiarava che una ragazzina di 17 anni avesse malmenato 4 omoni della loro struttura. Qua non ci viene nemmeno da ridere, perché qua c'è solo, c'è veramente solo l'incazzatura di questi che hanno veramente il coraggio di travisare, di tentare di portare l'acqua al proprio mulino. È diventata veramente la negazione della evidente realtà. Sì, poi se questo... I giornali hanno fatto poi uno schifo, pur di mantenere questa forma di par condicio tra le due versioni. Io stamattina ho letto addirittura alcuni giornali che dicevano che c'era un ferito per schieramento, quasi. Si continua con questa retorica dello scontro tra bande, che non è vero, di un tafferuglio tra ragazzini che hanno problemi personali e quindi arrivano alle mani. Addirittura alcuni non parlano nemmeno dello scontro fisico e si parla solamente di un arterco verbale. Questo è uno dei più evidenti, una delle evidenze che l'informazione borghese è assolutamente inaffidabile e di parte. Senti, ieri avete fatto un'assemblea, ho letto nel comunicato, com'è andata e quali sono, insomma, le cose che vi siete detti e quello che avete intenzione poi di fare in futuro? Noi ieri abbiamo fatto, sì, immediatamente un'assemblea nel pomeriggio, a cui hanno aderito tutte le altre strutture napoletane e anche comunque un minimo di giornalisti interessati, che lo abbiamo fatto girare tra i contatti. E ci siamo detti sostanzialmente che loro non ci possono bloccare. Queste sono intimidazioni belle e buone, sono intimidazioni che noi riteniamo nascono dalla necessità del passaggio politico cittadino. Quindi loro, trovandosi sostanzialmente politicamente morti, loro unica cosa che riescono a fare per avere un minimo di visibilità è arrivare allo scontro violento e a cercare a questo dialogo con le armi. Noi ci siamo detti di continuare, ci siamo detti di sbugiardarli il più possibile a livello mediatico. Andremo a parlare, abbiamo già parlato con i commercianti del quartiere che hanno visto tutto, e faremo passare la versione reale con le persone vere che racconteranno quello che è successo. Faremo nomi, perché non l'abbiamo riconosciuti, quindi faremo nomi di chi sono queste persone. La nostra volontà è che, come dicevamo ieri, i genitori di questi ragazzi all'interno del quartiere devono avere vergogna di avere dei figli fascisti, perché la colpa è anche loro. Questo è il lato mediatico. Ovviamente poi c'è anche l'antifascismo militante, che avrà tutte le sue prassi, che noi opereremo contro questa persona. Perfetto, insomma, sei stato veramente esauriente. Da parte nostra un abbraccio piano piano per fargli male ai compagni che sono, insomma, ma stanno ancora in ospedale, mi hai detto, due? No, allora, ecco. Uno è uscito ieri sera, che era quello meno grave, e l'altro ragazzo, che comunque sta bene, ha preferito rimanere in prognosi stesso lui fino a stamattina. Dovrebbe essere in realtà uscito da poche ore, non ho notizie. Comunque il macchinato doveva uscire, preferito stesso lui rimanere in osservazione. E beh, i colpi alla testa ha fatto bene, certo. Sì, esattamente. D'accordo, allora gli porterai tu il nostro abbraccio da parte di tutta la redazione, certo, di Radio Onda Rossa, e anche a tutte e tutti voi. Grazie mille, buona giornata. Anche a te, ciao.